cambio il condensatore, lui sa che funziona, ma non me la fate nulla, io non ho a casa mia possibilità di usare apparecchi. Ma uso quando vengo qui a casa di mamma, che addirittura non ci... perché mamma si trasferisce e quindi tanto male. Adesso mi state ascoltando, fra 1 mese magari smetterò per 3 anni e poi me ne sono fatte fra 4. No, già, il discorso è che la passione ce l'ho sempre avuta io, ce l'avrò sempre, apparecchi ne ho, perché ne ho tanti, il discorso è che non ho voluto di stare lì a piantare le antenne, fare, rifare, qui l'attacco perché c'è l'antenna, tanto c'è, e non me la fotti nulla, però io a casa mia non voglio fare nulla, niente, proprio già, proprio nulla, io quando rientro poi rientro anche tardi, io non ho tempo per fare queste cose, la domenica me lo impegno con mia con la bambina. Già, la roba che ho io, non la puoi mandare avanti con l'antennino, anche perché io divento nervoso, capito? Io, o mi ascoltano o non mi ascoltano, se prendo il baracchino, se lo fanno parlare sopra la riata, tanto male che non c'entro. Perché? Vabbè, lascia perdere. Lascia lì, mi ferma e è caldo, mi sono finita la risa. Non me ne sono accorto anche io, cioè, quando fanno la città mi sono andato da un'altra parte. No, a me li hanno messo perché aggiunti già. Amici e tutto, ciao Natalia, anche a te allora, amici miei auguri e anche di Roma Mazzico, ci sentiamo, che mi sta scusando il telefonino.